Nasce da un'esigenza di trovare un momento per noi di confronto e approfondimento, per raccontare ciò che avevamo intorno e per legare il territorio al nazionale. Quindi ci siamo inventati l'anno scorso questo momento, tenendo insieme il progetto di libera formazione che volevamo attivare in quel momento. Quindi l'anno scorso c'è stata una prima edizione molto bella e partecipata, e quest'anno è la continuazione di quel percorso, con tante novità e tanti momenti di approfondimento in più. Quali saranno i temi principali che verranno trattati durante i 4 giorni del festival? Libera è una rete poliedrica che tratta molti argomenti e che quotidianamente lavora su tanti piani. Condensarli tutti in 3 giorni è impossibile, abbiamo dovuto fare delle scelte anche in base a dei percorsi che avevamo più avanti, più avanzati, più attivi. Parleremo di beni confiscati, parleremo di giustizia sociale con Don Luigi Ciotti, parleremo di agromafia con Giancarlo Caselli, parleremo di droghe, di narcotraffico, di luoghi delle droghe nel nostro territorio, e parleremo di giornalismo d'inchiesta, di informazione sia sui fatti del nostro territorio, quindi il processo Emilia, le mafie in Emilia Romagna, come si raccontano, come si narrano le presenze mafiose nel territorio, ma coglieremo l'occasione anche di creare un ponte con la provincia di Foggia, quindi racconteremo, sarà un momento dedicato al giornalismo d'inchiesta anche della provincia di Foggia. Nello stesso tempo Foggia ci dà la possibilità, attraverso Daniela Marcone, che è la nostra referente nazionale dei familiari delle vittime di mafia, che è foggiana, di aprire un momento di ricordo sulla memoria. E lo faremo con le scuole, lo faremo con la cittadinanza, e avendo anche Tilde Montinaro coinvolta come familiare di Montinaro, caposcorta di Falcone, quindi ci saranno più momenti, più fasi di approfondimento con pubblici diversi. Ok, dunque un programma molto vasto che tocca diversi aspetti delle mafie. Quest'anno appunto il focus non sarà solo sulla città di Bologna ma anche di Foggia. Come mai questa scelta? L'idea nasce durante i fili dell'anno scorso dall'esigenza di raccontare oltre noi anche qualche altro territorio che in questo momento non ha piena luce. E quindi l'anno scorso avevamo individuato Foggia, poi siamo stati sostenuti anche, fortunatamente, questa è una scelta fortunata, dal Nazionale di Libera, che ha scelto Foggia come città della manifestazione del 21 marzo. Quindi è stata una scelta dettata più che altro da questa: accendere i riflettori su territori che avevano luci spente. E sono tanti in Italia, sono tanti luoghi in cui le mafie sono forti, penetranti, condizionano la vita quotidiana delle persone, ma non vengono narrate. Purtroppo accedono ai telegiornali solo quando ci sono fatti eclatanti e poi i riflettori si spengono immediatamente, però quelle persone vivono in quei territori tutto l'anno, le mafie tutto l'anno si rafforzano, creando condizionamenti importanti con la politica, con la massoneria, con l'imprenditoria di quel territorio. E noi, per sconfiggere davvero le mafie, visto che le mafie sono un unicum che nasce in alcuni territori, si potenzia e si diffonde, noi dobbiamo seguire tutta la filiera, e il contrasto deve seguire tutta la filiera. E quindi anche un'associazione come la nostra, con una rete nazionale, da Bologna deve aprire una finestra su quelli che sono le attività che stanno facendo i loro amici di Libera su quel territorio, per dimostrare che la mafia va aggredita con una strategia nazionale, addirittura internazionale. Durante la conferenza si è parlato anche di un, diciamo, congiunzione astrale particolarmente favorevole rispetto all'impegno antimafia. Può dirci quali sono i principali costituenti di questo momento favorevole? Ci sono delle circostanze che vanno colte, sono ambiti che sono sia normativi che di persone, personali. I normativi è sicuramente, abbiamo alle nostre spalle di qualche settimana l'approvazione del codice antimafia, che è un aspetto importante per quello che sono le attività di contrasto e apprensione dei beni mafiosi, ma che sono importanti anche per la continuità che poi questi beni devono avere attraverso il riutilizzo sociale. Contemporaneamente veniva approvata il testo unico regionale sul contrasto alle mafie, e con il Tribunale di Bologna, quindi con la sensibilità del Presidente del Tribunale, con il lavoro che è stato fatto da Libera, Visu Pubblico, CGL, CISL, UIL, Agenzia Cooperare con Libera Terra, col coordinamento scientifico della professoressa Pellegrini, è stato approvato il protocollo d'intesa per la gestione e l'utilizzo dei beni sequestrati e confiscati. Abbiamo un prefetto sensibile che è arrivato e un prefetto che è andato, ma è andato a ricoprire un ruolo importante all'interno dell'Agenzia Nazionale per i beni sequestrati e confiscati. C'è un'attenzione, da quanto ci risulta, degli enti locali, territoriali, quindi tutto questo deve far sì che sia l'attività di analisi della presenza mafiosa sul territorio, sia l'attività di contrasto anche attraverso attività amministrative per sbloccare le situazioni che ancora bloccano il riutilizzo sociale di tanti beni, possiamo cogliere. Quindi questo è un percorso che dobbiamo assolutamente percorrere in questa fase. Quindi questa è la congiunzione astrale di cui veniva narrato all'interno della conferenza.